Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Subito la mail, un abuso al giorno, @radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore, oppure lo trovate attraverso un motore di ricerca. Come sapete, lo dico spesso, non affronto casi personali a meno che non interessino una collettività molto più ampia delle persone che scrivono. Sono molte le mail che non prendo in considerazione, soprattutto quelle classiche, di fronte alle quali, per carità, non voglio arrendermi, ma sono la regola: il telefono staccato, la luce che non arriva, insomma, quei classici servizi pubblici spesso inefficienti con i quali tutti abbiamo a che fare. Li prendo in considerazione quando, come il caso del nostro radioascoltatore Luca Aroldi, che ci scrive dalla Lombardia, da Garbagnate, è una storia davvero paradossale, incredibile, una di quelle storie raccontate, che ora sentiremo dalla sua viva voce, che se accadessero a Lamezia Terme, piuttosto che a Gela, piuttosto che a Bari, a Napoli, a Caserta o comunque nel sud Italia, tutti sarebbero pronti a gridare allo scandalo, all'inefficienza dei servizi, al sud arretrato, eccetera eccetera. Invece accade a due passi da Milano, nell'ospedale di Garbagnate Milanese. Per sentire quel che è successo, io do la buona giornata a Luca Aroldi, che è l'ascoltatore che ci ha segnalato il caso. Buongiorno Aroldi. Buongiorno a voi. E do il buongiorno a Donata Castelli, che è responsabile delle relazioni con il pubblico dell'azienda ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate Milanese. Buongiorno Castelli. Buongiorno. Allora Roldi, passiamo e partiamo da lei. Lei, tra le altre cose, è un infermiere professionista qui all'Istituto Ortopedico Galeazzi, quindi sa bene che cosa è il mondo della sanità, ma veniamo al racconto che purtroppo coinvolge sua madre e coinvolge la morte di sua madre. Prego, Roldi. Niente, io con mia mamma, che era affetta da una neoplasia polmonare che stava comunque piuttosto degenerando, siamo recati all'ospedale di Garbagnate il 30 del mese scorso, il 30 di ottobre, dopo esserci già andati un paio di volte nei giorni precedenti a quella data, per episodi di fibrillazione atriale. Quel giorno lì siamo arrivati in pronto soccorso alle 18.20, 18.15 circa, e mia mamma aveva questa frequenza cardiaca che, come la dottoressa probabilmente sa, superiore ai 130-180 battiti al minuto, totalmente aritmica. Siamo rimasti praticamente fino alle 21.30 seduti su un lettino, in una stanzetta lì con un monitor collegato, senza che venisse interpellato il cardiologo. Quando io ho fatto richiesta di poter parlare col cardiologo, mi ha detto che era stato avvisato. Di fatto siamo stati lì 3 ore senza far niente, senza nessun tipo di infusione, senza un medico che la venisse a guardare, fino alle 9.30. Con una frequenza cardiaca di quel genere, con una pressione sanguigna che non era rilevabile, perché con una frequenza di quel genere la pressione, come ben sa la dottoressa, è molto bassa, senza poi parlare del fatto che quando ho chiesto agli infermieri che gli stavano cercando di posizionare un ago per le infusioni, ho fatto presente che lei aveva un portachet, perché lei non aveva delle vene facili, aveva questo catetere sottocutaneo, esatto. Mi hanno detto che loro non avevano gli aghi e che comunque loro non potevano gestire. Io poi l'indomani mattina, siccome mia mamma era a casa, l'ho idratata io a casa, sono andato in ospedale sempre lì a Garbagnate, ho chiesto un ago come della terapia del dolore, me l'hanno dato e l'ho idratata, per cui potevano farlo anche lì, nel senso... Ecco, io la interromperei un attimo, perché vorrei riassumere un pochino quelle che sono, come dire, le vicende incredibili che lei ci sta raccontando. Le sintetizzo volgarizzandole, vale a dire 3 ore di attesa prima che un cardiologo si facesse vivo, sicuramente non metto in dubbio che avesse altro da fare, ma stiamo in presenza di un malato terminale, di una persona destinata a morire purtroppo, quale era sua mamma, bisogna dire le cose crude come stanno, con delle aritmie cardiache, insomma una persona che bene non sta, quindi... Come dire, un occhio di riguardo suppongo ci volesse. Così come ci troviamo di fronte ad un'altra denuncia che lei fa, vale a dire il tentativo, a volte anche ridicolo, di massacrare di buchi le braccia di sua madre per un'iniezione. E ci troviamo di fronte ad un infermiere, vale a dire ad una persona che conosce il mestiere. Figuriamoci ciascuno di noi che si trova ad un pronto soccorso, perché stiamo parlando di un pronto soccorso, che tipo di avventure può correre senza saperlo, perché l'ignoranza purtroppo porta anche a questo: non sapere quando e come il proprio caso è ritenuto grave dall'ospedale nel quale ci si imbatte. Però mi pare di capire, Haroldi, che le incongruenze, le stranezze non finiscono qui. Lei ad esempio parla, e lei sa di cosa parla, di allarmi disinseriti, insomma di situazioni sul monitor abbastanza strane che probabilmente non fanno onore ad un ospedale. Perché intanto che ero lì, il monitor l'ho guardato solo io, perché non è venuto nessuno, e c'era il simbolo della campanella sbarrata. Io lavoro in sala operatoria e quel simbolo lì vuol dire solo una cosa: non so se era inserito così per errore, questo non lo posso sapere. So che quando c'è il simbolo della campanella sbarrata su un monitor, vuol dire che l'allarme in quel momento è disinserito. Io mi chiedo, se io non sono lì, questo monitor come fa a suonare e avvisare che c'è qualcosa che non va? Certo, ecco, devo dire che tutte le denunce di Haroldi sono state circostanziate in una lettera che noi, come d'abitudine, dopo l'autorizzazione abbiamo girato pari pari all'ospedale di Garbagnate, l'ospedale Guido Salvini. Io ringrazio ovviamente la dottoressa Donata Castelli per averci messo la voce. Devo dire, per onestà intellettuale e per rispetto dei miei radioascoltatori, che noi abbiamo cercato di metterci in contatto con i vertici dell'azienda ospedaliera Guido Salvini, i quali, probabilmente indaffarati in tutt'altro, hanno ritenuto, nonostante abbiano avuto giorni di tempo per pensarci, di non intervenire in trasmissione. Io comunque ringrazio Castelli, ovviamente, perché lei che in questo momento ci sta mettendo voce e faccia. Certo che un po' più di coraggio dai vertici amministrativi delle istituzioni pubbliche io lo pretendo. Detto questo, Donata Castelli, intanto di nuovo buongiorno. Buongiorno. Che cosa rispondiamo alle accuse circostanziate del dottor Haroldi? Allora, con altrettanta crudezza, ma con dati visibili sotto mano e accessibili, le rispondo. È vero, la signora è arrivata nel nostro pronto soccorso di Garbagnate il 30 alle ore 19.30. Alle 19.35 le è stato fatto un elettrocardiogramma. Alle 18.48 ha fatto la visita internistica. Il medico che l'ha visitata conosceva la paziente perché aveva già avuto due precedenti accessi, il 28.10 e il 15.10. Ha richiesto comunque degli esami di routine del sangue, ma nello specifico ha chiesto anche il didimero e il PNP, che servono proprio per accertare il grado di scompenso cardiaco. Ha allertato il cardiologo alle 18.58. Il cardiologo, per caso, era il medesimo che l'aveva vista nell'accesso precedente, cioè il 28.10, quindi conosceva bene la paziente. Tra i due medici è stato preso l'accordo che, a esami ottenuti, il cardiologo sarebbe venuto a ricontrollare la paziente. La paziente però non era stata messa in una sala qualunque aspettando. La paziente era in una sala emergenza con un altro paziente in codice giallo. In quella fascia oraria, nel pronto soccorso di Garbagnate, erano presenti 4 codici gialli, e nella fascia successiva, cioè dalle 19, sono arrivati anche 2 codici rossi. Cioè estreme urgenze, insomma. Le urgenze non erano, erano 7. Sì. La paziente è stata attaccata al monitor. Come ha detto il figlio, aveva un'aritmia. Monitor che era, come dire, vigilato in quel momento o no, come dice il figlio? Certo, vigilato. Le Nonostante spiego... la scritta allarme off. L'allarme off viene disattivato perché in caso di aritmia il cuore alza e abbassa il battito, era un'aritmia fluttuante, e guarda caso, per coincidenza, anche l'altro paziente aveva la stessa patologia. Fossero stati inseriti gli allarmi, sarebbe stato un suono unico. Oh, d'accordo. La paziente era sotto controllo. No, va bene, finora... Il figlio, anzi, si è relazionato con il personale del pronto soccorso, si è fatto riconoscere come infermiere, ha detto ai colleghi chi era. Un secondo, no, questo qui d'accordo, abbiamo soltanto un minuto per rispondere all'ultima cosa, sì. Vale a dire i buchi. Portacatte. Esattamente. Allora, il portacatte di norma preferiamo non usarlo, perché essendo una via preferenziale per i grandi vasi venosi, può rappresentare anche un alto indice di accesso per eventuali infezioni. Benissimo, io la ringrazio. No, un secondo, devo fermare perché abbiamo soltanto più 30 secondi. Mi pare, Haroldo, io intanto ringrazio la dottoressa Castelli del suo precisissimo intervento. Mi pare di capire, Haroldo, che qui ci troviamo di fronte quindi a due versioni nettamente contrastanti. La sua, che denuncia quello che ha denunciato, e l'ospedale che ha fatto tutto ciò che doveva. Ovviamente non spetta a me giudicare e dare una risposta, però spero che lei dia, come dire, una battuta conclusiva su questo. Innanzitutto sugli orari, che gli orari comunque non sono quelli. Il paziente, il medico che ha visto mia mamma, evidentemente non la conosceva così bene, perché non sapeva la terapia che aveva in corso, e comunque una paziente con un'aritmia così non si lascia 3 ore in attesa che il ritmo cardiaco ritorni spontaneamente senza fare un'infusione. E per il discorso dei porta, che è di porta che viene messo proprio alle persone che hanno difficoltà di accessi venosi per consentire le infusioni, tant'è vero che su in pneumologia ha sempre fatto qualunque tipo di infusione, dalle chemioterapie agli altri farmaci, sempre fatti attraverso quella via. Va bene, io la devo interrompere, Haroldo, perché il tempo è scaduto. Ovviamente abbiamo dato l'opportunità a lei di fare la sua denuncia all'ospedale, doverosamente di difendersi. Vi ringrazio per i vostri interventi. Grazie regia Carmelo Lauricella, in studio ad Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo. Vi auguro una buona giornata.